reportage. Io avevo fatto un'interrogazione chiedendo alla Commissione europea se era normale che in Italia non si potesse usare latte in polvere per fare gli yogurt, ma si potessero vendere gli yogurt importati fatti con latte in polvere. L'hanno chiamata forse semplicisticamente la battaglia contro il formaggio senza latte. È partito tutto da qui. La voce è dell'ex eurodeputato Oreste Rossi, allora nella Lega Nord. Domandò a Bruxelles nel gennaio del 2013 se fosse legittimo che nel nostro paese fosse vietato il latte in polvere nella produzione di formaggi e affini. A quel punto la Commissione avviò delle verifiche, chiese informazioni a Roma. Alla fine è arrivata la diffida. L'Italia deve correggere la legge 138 del 1974, che vieta appunto l'utilizzo del latte in polvere e ricostituito per i prodotti caseari. Confermo che in effetti una lettera è stata spedita alle autorità italiane alla fine di maggio, sulla base di una protesta ricevuta dai produttori italiani di formaggi che si considerano penalizzati dalla legge italiana. Ora stiamo verificando questa protesta, ci sono delle procedure da seguire per casi del genere e in questo momento stiamo appunto seguendo queste procedure. Stiamo aspettando delle risposte dalle autorità italiane in merito a questo. Penso che si arriverà presto ad una conclusione tenendo conto di questa protesta avanzata dai produttori italiani di formaggi e la Commissione lavorerà per risolvere tutti i problemi e le difficoltà in questo senso. Un provvedimento, quello europeo, in nome quindi della libera concorrenza all'interno dell'Unione. Apriti cielo, in molti l'hanno considerata come l'ennesima ingerenza dell'Europa negli affari nazionali. L'ex europarlamentare Rossi, che avviò indirettamente l'intervento della Commissione, ci spiega i motivi di quell'interrogazione. Perché il latte in polvere è venduto per i bambini sostitutivo al latte materno quando questo non c'è. Il latte condensato è venduto in tutti i supermercati, normalmente in tubetto o in scatola. Il latte in polvere viene usato come crema da aggiungere al caffè, spesso e volentieri nei bar lo si trova in bustina. Lo troviamo, ripeto, nelle merendine di quasi tutte le ditte. Non si riesce a capire perché non si poteva usare per gli yogurt, a meno che non fossero fatti all'estero. Questo significava che le imprese italiane, se volevano fare degli yogurt usando anche il latte in polvere, che rende poi lo yogurt più cremoso, oltre che più economico, perché concentrando il latte si trasporta 10 cisterne in una, e quindi il costo di trasporto è minimo, benissimo, devono farlo fare in una ditta francese, quindi si perdevano sia posti di lavoro, ma l'altra cosa è che costava di più, quindi si potevano fare due cose, vietare l'importazione oppure permettere in Italia ai produttori di produrre con latte in polvere, ma se si vietava l'importazione a quel punto non si doveva vietare il latte in polvere per i bambini, si doveva vietare tutto il latte in polvere che viene utilizzato ad esempio per le proteine, per quelli che fanno palestra, si doveva vietare nelle merendine, perché vale per tutti la regola, non vale solo per qualcuno. I formaggi, quelli DOP, DOC, eccetera, eccetera, hanno un disciplinare che prevede l'uso del latte intero, punto. Quindi non potrà essere usato latte in polvere. Quelli che non hanno disciplinare, eventualmente si potrà usare per fare il latte in polvere, ma sarà scritto in etichetta. Il cittadino decide se comprare quel prodotto o non comprarlo, ma deve essere libero di comprarlo fatto in Italia, perché lo deve comprare fatto in Francia e importato in Italia, quindi pagato di più. Si spera che il risparmio poi sia trasferito sul consumatore, no? Che anche il prodotto... In teoria è in libera concorrenza, se lo yogurt costa meno ci sarà chi lo venderà a prezzo più basso. Lei faceva riferimento al problema occupazionale ed è proprio da questo punto di vista che si sono sollevate alcune criticità. I piccoli produttori di latte che conferiscono il latte appunto al caseificio lamentano adesso, nel caso in cui la legge appunto venisse abrogata, lamentano minore richieste da parte dei produttori di formaggi appunto. Servendosi del latte in polvere? No, perché la maggior parte del latte intero viene consumato dalle cooperative, venduto tal quale, primo. Poi va a finire tutti i formaggi DOC, DOP, eccetera, eccetera, come parmigiano, grano padano, pecorino, eccetera, eccetera, usano tutti il latte intero. Tutti i latti di alta qualità di montagna devono usare, continuare ad usare il latte prodotto a una certa altezza. Sono tutti prodotti che usano il latte importato. Quindi cosa gliene frega i produttori italiani che coprono il 40% del fabbisogno nazionale, che il restante 60% arrivi con 10 cisterne o arrivi in una cisterna sola? Fatti mandare dalla mamma a prendere latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, sottolinea invece la perdita di un'ulteriore fetta di mercato per i piccoli produttori di latte che conferiscono al caseificio. Sarebbe svantaggiata la zootecnia italiana, che è già in ginocchio, perché se io tolgo anche questa possibilità di rifornimento e continuo a rifornirmi dall'Argentina, dalla Nuova Zelanda, dall'Australia o dalla Germania, questo è il colpo di grazia che viene dato alla zootecnia italiana. Ma Sardo allarga la questione e specifica i perché della contrarietà all'abrogazione della legge. I rischi dal punto di vista della sicurezza alimentare e della salute non ce n'è. Ci sono però tre questioni di fondo. La prima, che mi stupisco che l'Europa chieda l'abrogazione di una legge che è più restrittiva di quella europea, perché in genere le leggi più restrittive, cioè quelle che impediscono il latte in polvere mentre l'Europa lo consente, dovrebbe essere un affare interno, cioè al massimo dovrebbe riguardare il nostro governo e gli industriali italiani. E vabbè, vedremo come si comporterà. Io spero che su questa cosa dirà che appunto non è affar suo. La seconda cosa, visto che abbiamo da 40 anni questa legge e siamo rimasti soli in Europa a non produrre formaggio con latte in polvere, non vedo perché dobbiamo perdere questo attu di marketing, che è un attu forte. I formaggi italiani sono posizionati nel mondo come formaggi di alta qualità e possiamo aggiungere fatti senza latte in polvere. E la terza questione è l'ipocrisia con cui anche certa stampa sostiene questa scelta di fare con latte in polvere, dicendo che è per stabilizzare i formaggi, che è una questione tecnica, che è una questione che ha delle radici dal punto di vista della necessità produttiva, che sono tutte storie. La questione è che costa meno. Io con un chilo di latte in polvere faccio 10 litri di latte, un chilo di latte in polvere costa 2 euro, 10 litri di latte al prezzo attuale costano 3,60 euro, quindi c'è 1,60 euro di risparmio, e si immagini se per un industriale non è una cifra enorme dal punto di vista dei milioni di litri. Quindi è tutto lì la questione, vogliono spendere meno e vogliono guadagnare di più. A loro discapito i produttori che intendono utilizzare il latte in polvere sostengono che nel processo di caseificazione comunque si può aggiungere una parte di latte in polvere appunto per standardizzare la miscela e aumentare la quantità di proteine, visto che la composizione del latte varia con le stagioni e i periodi dell'anno. Questa giustificazione le sembra plausibile? Questa giustificazione ha l'aria di essere plausibile, ma se provassimo a invertire la questione, dire va bene, il latte in polvere mi costa 3,60 euro e il latte liquido 2 euro, vedrà quanti dicono che bisogna mettere il latte in polvere per stabilizzare. Lo dicono perché è un risparmio effettivo ed è una grande comodità. L'Italia avrà tempo per discutere e trovare la quadra fino al 29 settembre, poi sarà messa in mora dalla Commissione. Noi stiamo raccogliendo firme, siamo arrivati a 150.000. Il ministro Martina ha intenzione di non cedere. Non credo che ci sarà un'infrazione, una messa in mora dell'Italia su una questione come questa. Certo, il dibattito sarà lungo e complesso, ma se il ministro tiene duro e noi portiamo sul tavolo dell'Europa un bel pacchetto di firme, voglio vedere cosa succederà. Paolo De Castro, coordinatore per il gruppo dei socialisti e democratici della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, sottolinea che da Bruxelles non c'è nessun diktat. Il commissario Hogan, intervistato su questo dalla Commissione riunite di Camera e Senato, si è dimostrato assolutamente disponibile a venire incontro alle autorità italiane a cercare di costruire un percorso. E d'altra parte dire che questa legge impone la produzione di formaggi al latte in polvere, questo non è vero. Anche perché questo vorrebbe dire che tutta la produzione francese, belga, tedesca sarebbero tutte porcherie fatte con latte in polvere. Cioè, questo mi sembrerebbe un po' una semplificazione eccessiva. Noi lavoreremo per difendere questa specificità italiana, visto che il sistema produttivo ormai si è costruito intorno a questa caratterizzazione. Dopodiché però prepariamoci anche per il futuro per avere sistemi di certificazione alternativi come il Label Rouge oppure sistemi di etichettatura altrettanto chiari, perché dobbiamo difendere anche quel 25-30% di produzione di latte italiano che va a formaggi comuni non certificati e né latte alta qualità. Un ammodernamento richiesto anche da Assolatte, come ci riferisce il portavoce Massimo Favino. Nessuno pensa di prendere il latte in polvere e miracolosamente trasformarlo in formaggio o in prodotti trasformati, perciò ci tenevo a dire che sono dei piccoli quantitativi. A livello europeo, per esempio, la Francia, sempre per citare paesi molto simili all'Italia, per tradizione casearia, ha dei limiti massimi soprattutto sui prodotti più legati alla tradizione. L'aspetto è sicuramente da discutere, ma la discussione non è con noi, questo è chiaro, la discussione è tra il governo italiano e la Commissione europea, perché non è con noi che va discusso. Quando ci è stato chiesto cosa ne pensassimo, abbiamo più volte detto che sarebbe il caso di ammodernare la normativa. Tenga presente che la normativa sui formaggi in Italia è una normativa che risale al re. I formaggi si fanno secondo una normativa del 1925. Il divieto del latte in polvere però è stato posto nel 74. Certo, sono due norme, la prima del 25 e la seconda del 74. Su queste due norme abbiamo chiesto da tempo una ridiscussione e speriamo che la richiesta della Commissione europea ci permetta di discutere con gli altri attori della filiera come ammodernare la normativa di settore. Quindi, tirando le somme e smentendo qualche retaggio, l'Unione Europea non impone formaggi senza latte. Certo, la richiesta per l'utilizzo del latte in polvere, fin qui vietato in Italia, è un fatto reale, ma è stata avanzata dagli stessi produttori italiani. Non tutti, per questo il dibattito è aperto. La Commissione di Bruxelles indica la linea, l'esito della discussione col governo fra qualche settimana. Euro Reportage. Collaborazione con Euronet Plus.